Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Come ogni tanto succede, siete voi stessi a scegliere l'argomento di una puntata. Quella di oggi, per esempio, è stata suggerita da Fra Michele Bassoli. È un frate, avete sentito bene, che ci ascolta regolarmente da un convento emiliano e che ogni tanto mi scrive. In questo caso per segnalarmi che sabato 25 settembre, e Fra Michele sa bene che il sabato questo appuntamento non c'è, o meglio va in onda in una forma diversa, e quindi mi ha pregato di anticipare il fatto che sabato 25 settembre saranno 50 anni dal debutto di Gianni Rivera, con suo idolo indiscusso, con la maglia del Milan. Ho controllato. Effettivamente corrisponde, quel campionato iniziò domenica 25 settembre con una serie di partite che poi magari per curiosità vi elencherò. L'Inter vinse 5-1 a Bergamo, per esempio, la Juventus vinse a Udine 1-0, poi vi dirò anche qualche nome di marcatori perché hanno indubbiamente una grande suggestione a distanza di mezzo secolo. E poi ovviamente nella seconda parte parleremo invece della giornata che si gioca stasera, la prima infrasettimanale di questa stagione. Quella fu la prima partita di 658 partite che Gianni Rivera ha giocato con la maglia del Milan. Gianni, benvenuto tra noi. Grazie, ciao e buongiorno a tutti. Che cosa ricordi di quel 25 settembre e di quel Milan-Catania 3-0? Beh, non è che abbia un grandissimo ricordo, è stata una partita normale. Per me giocare al calcio con la maglia del Milan, dell'Alessandria, della nazionale, era la stessa cosa, l'importante era andare in campo. Esserci. Quindi quel giorno ero tra i fortunati che si giocavano la prima di campionato. Ed è stato bello, abbiamo vinto una partita che è stato l'inizio di una lunga storia. Senti, una curiosità così in generale che spesso mi viene quando parlo con gente come te che appunto ha giocato a calcio a quel livello per 20 anni, quante su 5, 6, 700 partite, 400, insomma, quante ne ricordi per esempio tu? Cioè quante ti sono rimaste vive dentro? Ma per dire la verità ne ricordo tante, perché ognuna ha il suo significato, i suoi avvenimenti che ti coinvolgono, quindi ne ricordo tantissime. Bisogna piano piano andare a cercare che cosa è successo in quel giorno piuttosto che in un altro, però me ne ricordo tantissime, perché per me giocare a calcio era la cosa che divertiva in modo assoluto, e quindi il divertimento è certamente quello che ti rimane più impresso. Poi ti rimane impresso anche il momento negativo, perché tutto serve per costruire un carattere, un temperamento, un cammino. Quel giorno avevi 17 anni e 3 mesi, insomma, detto così fa impressione, ma fa impressione fino a un certo punto. Meno di tre mesi, 17 anni e qualcosina meno di 3 mesi. 40 giorni. Il tuo debutto in Serie A però era avvenuto un anno e mezzo prima ad Alessandria, quando di anni ne avevi 15, di mesi una decina circa, sì. E di fronte tra l'altro c'era l'Inter. Allora, tra il quindicenne che con la maglia grigia debuttò contro l'Inter e il diciassettenne che con quella rossonera invece si trova di colpo in questo immenso catino, quale dei due era un po' più emozionato? No, nessuno. Era lo stesso tipo di attenzione, non ero emozionato perché, come ho detto, io quando andavo in campo mi sentivo libero, mi sentivo me stesso, mi sentivo responsabilmente impegnato, e quindi non mi emozionavo più di tanto. Per cui è stata la stessa cosa il 2 giugno del 59 come il 25 settembre del 60. Anche se può sembrare strano, ma è così. Sai, così la domanda. Realmente sono sempre stato così, anzi, a quei tempi qualcuno mi diceva che ero nato vecchio. Dire che sembrava strano che non mi emozionassi per eventi così importanti. Un fondamento forse c'era. Evidentemente. Assolutamente sì. Ho sotto gli occhi la foto, siete in posa quel giorno, prima della partita, e vedo dall'alto e da sinistra, vedo Lidl con la fascia di capitano, Cesare Maldini, Altafini, Rivera, Galli, Barison, accosciati, come si diceva allora, Vernazza, Giorgio Ghezzi, il portiere, Salvadore, particolarmente giovane, non come te, ma insomma, David e Zagatti, alcuni non ci sono più, segnarono quel giorno Vernazza, anzi Altafini prima, adesso vado a ripigliare il tabellino, Altafini, Vernazza e di nuovo José Altafini. Che Milan era rispetto a quelli che poi hai vissuto nei successivi 20 anni? Ma era un Milan che, come hai visto dalla fotografia, era formato da giocatori già abbastanza maturi e giovani che stavano arrivando. Mancava Trapattoni quel giorno, ma era uno dei giocatori che poi avrebbe preso la padronanza della situazione. Certo. E quindi poi è arrivato Trebbi, insomma ne sono arrivati anche altri. Era un Milan che puntava, poi non abbiamo vinto il campionato solo per colpa nostra, perché siamo riusciti a perdere in casa col Bari che tra le altre cose ha finito la partita in 10, quindi figurati col portiere Magnanini che giocava alla destra. Quindi... perché a quei tempi non si potevano cambiare i giocatori, certo. Per cui se uno si infortunava doveva arrangiarsi in qualche modo. Laterale del terreno. Oh, senti, sperando che il mio e a questo punto anche tuo frate Michele sia soddisfatto della Marcord, io adesso farei un minuto l'intervallo e poi passerei a mezzo secolo dopo e a quello che Rivera adesso fortunatamente sta di nuovo provando a fare non più per il Milan ma per il calcio italiano. Sentiamo come va su strade e autostrade. Oh, se Gianni Rivera il 25 settembre 60 debuttava con la maglia del Milan a San Siro e appunto sono passati 50 anni, vuol dire che oggi alla fresca età di 67, tanto è delle signore che non bisogna dire l'età, no? Sì, poi tanti giornali lo scrivono tanti giorni. E quindi lo sappiamo. È entrato, è stato invitato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio ad occuparsi del settore giovanile e scolastico, succedendo nella qualità di presidente a un altro galantuomo del calcio italiano, ci tengo in modo particolare a dirlo, un altro amico personale, che è Massimo Giacomini. La domanda potrebbe essere, 50 anni ci ha messo un po' la federazione a capire che potevi servire alla causa, no? Sì, forse sarei potuto arrivare un pochino prima. Qualcuno pensava che ci sarei dovuto essere da parecchio tempo, ma le vicende della vita vanno così, non sempre la volontà, il desiderio, anche delle maggioranze si realizzano, e quindi non ci sono state prima le condizioni. Adesso evidentemente l'attuale presidente Abete crede che si possa creare un rapporto, un dialogo, e la speranza di dare un contributo per affrontare alcuni problemi, e mi ha chiesto se volevo interessarmi di questo settore, credo anche abbastanza importante, insomma i giovani faranno il nostro futuro, sono il futuro non solo del calcio ma anche della società più grande, quindi mi fa piacere occuparmene e spero di creare le condizioni, perché se non faremo tanti calciatori, il che è praticamente impossibile, perché tutti quelli che cominciano non possono arrivare a quel livello, ma almeno di creare dei buoni cittadini, che sarebbe già un successo altrettanto importante. Beh, questo già mi sembra un buon inizio programmatico. Credo, hai detto, io ho ritagliato, ho messo vecchia abitudine, perché a mia volta l'anagrafe è molto vicina alla tua, ma è un'antica abitudine professionale, quella di mettere da parte dei ritagli o delle notizie d'agenzia, che poi vengono sempre buone. Tu hai detto intanto creare dei cittadini, no? Prima ancora che degli sportivi, anzi con l'aiuto dello sport. Poi hai detto: credo che bisognerebbe spendere di più nei vivai piuttosto che nella prima squadra, ma dubito che questo accadrà mai. All'estero i settori giovanili funzionano perché sono un modo per alleggerire i bilanci societari. Chissà che in Italia non si riesca a importare modelli tipo quello dell'Ajax. Ecco, mi è venuto in mente Nils Lidholm, un discorso che forse facemmo insieme tanti anni fa, di come Lidholm, pur essendo un fuoriclasse di allenatore, sarebbe stato forse ancora più fuoriclasse se avesse allenato i bambini e i ragazzi invece che i grandi. Questo è vero, purtroppo è un'utopia perché non succederà mai, ma per certi versi bisognerebbe che andasse così, insomma, quelli bravi che conoscono bene i fondamentali, che sono anche un poco maestri, diciamo così, non sono solo allenatori, e dovrebbero dedicarsi ai giovani, perché è lì il punto di ricerca. Nelle grandi aziende che fanno altre cose si spende parecchio per la ricerca, e nel calcio e nello sport in genere la ricerca è quella di approfondire l'argomento giovani. E purtroppo questo non succederà mai, perché le società della Serie A pensano di vincere comunque i campionati ad ogni costo, e quindi vanno a cercare giocatori già pronti e finiti, e quindi non hanno una grande voglia di investire sui propri settori giovanili, per cui è difficile cambiare questa mentalità. Però noi è giusto dirlo da parte tua, è giusto provarci. Comunque è bene provarci, chissà che un giorno non si trovi qualcuno che magari ci crede anche. Questo messaggio, certo, lo accetto. Visto che i soldi che arrivano non saranno infiniti, magari qualcuno che è un po' preveggente può cominciare ad investire sui giovani prima ancora di quello che ci si può aspettare. Secondo ritaglio, e poi chiudiamo questo collegamento, perché so che per l'appunto gli impegni al settore giovanile e scolastico ti attendono. Mi pare, hai detto, che negli ultimi anni si sia puntato molto di più sull'aspetto fisico che non su quello tecnico, e probabilmente questa è una scelta che parte già a livello giovanile. Io penso invece sia fondamentale che a quell'età prima si scelgano ragazzi bravi con la tecnica e questa si affini, e che poi si formi l'atleta. Il contrario è negativo. Beh, credo di aver hai parlato bene. Ciottega parla bene, avrebbe detto il tuo allenatore, no? Credo di aver detto una banalità, nel senso che è così. Si può migliorare il fisico di un calciatore che ha buoni piedi, ma far diventare buoni i piedi di un di un ragazzo che ha un fisico eccezionale è più complicato, evidentemente, no? Anche se può migliorare, ma insomma, prima bisogna individuare la tecnica e poi si può migliorare il fisico, ma il contrario credo che sia proprio impossibile. Pertanto bravi che si possa essere nel migliorarsi. Certo. Senti, tu hai detto una banalità, chiudiamo con una banalità che è una domanda in un ascoltatore, che però ti giro volentieri, perché a me è capitato di rivedere la finale messicana col Brasile non più tardi di un mese fa, e anch'io mi sono posto quella domanda con la mentalità di oggi, con l'abitudine che abbiamo oggi a vedere calciatori, come dire, meno educati e meno obbedienti di un tempo. Ma non ti è passato per la testa a 6 minuti dalla fine, quando Valcareggi ti ha fatto segno di entrare, di dire no grazie? No, non ci ho proprio pensato. Non ci ho pensato, anche perché devo dire che mi aspettavo di andare in campo in ogni momento, quindi quando me l'ha detto non mi sono reso conto neanch'io che mancava così poco, anche se avevo visto il risultato, che non è che mi entusiasmasse, perché vinceva il Brasile già 3-1. Però se l'allenatore in quel momento ti chiedeva di andare in campo, dovevi rispettare. Certo. In teoria anche oggi. E oggi magari qualcuno potrebbe non farlo, ma credo che sarebbe scorretto, perché l'allenatore non deve essere discusso sul piano del regolamento, dell'accettazione delle regole interne. Nella catena che tiene insieme una squadra di calcio, l'anello dove si posa l'allenatore è il più debole, e quindi non bisogna indebolirlo ancora di più facendo resistenza oppure creandogli dei problemi eccessivi rispetto a quelli che ha già. Certo. Buon mezzo secolo, Gianni. Ciao, buona continuazione. Cerca di arrivare tu anche a quel livello. Sì, certo, grazie. Arriverai presto. Grazie. Sì, ci proverò. Buon lavoro. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Buon lavoro a Gianni Rivera. Poi vi dicevo di questa giornata, di allora, di questo Marcor, magari la rubrica di Nicola Filippone oggi più tardi la sostituiremo con il tabellino. Prima ci sarà spazio per il tabellino delle partite di stasera, evidentemente, perché adesso l'attualità reclama i suoi diritti, ma poi per curiosità salterà fuori il tabellino completo con i marcatori delle partite di quella prima giornata di 50 anni fa, quella che vide il debutto di Gianni Rivera, non in Serie A, perché aveva giocato in Serie A e come con l'Alessandria. Due partite a 15 anni, un campionato intero a 16 e poi appunto l'arrivo nella cattedrale di San Siro. Ci sono due ascoltatori collegati, il primo è Francesco della provincia di Chieti, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, la saluto e la ringrazio per questi 20 minuti di scuola di calcio con un maestro dello sport. Grazie. La mia domanda è una domanda di curiosità. Perché il maestro Gianni Rivera, io sono juventino, sì. Il maestro Gianni Rivera non ha mai deciso di intraprendere la carriera di allenatore di una squadra di calcio? Dovrebbe essere lui a rispondere, il collegamento l'abbiamo chiuso, le rispondo io perché gliel'ho domandato. Insomma, gli è stato domandato anche da me, insomma, ai tempi in cui c'era un rapporto, come dire, professionale, più di una volta, e lui mi ha detto che non si è mai sentito, insomma, la sua risposta è che non si è mai sentito la vocazione vera di insegnare. Io aggiungo di mio che probabilmente apparteneva a quella categoria di giocatori troppo bravi, troppo dotati di natura per riuscire a immedesimarsi, come dire, in quelli più scarsi. Detta così magari non è detta molto bene, ma insomma il concetto credo che dovrebbe essere chiaro. Rivera ha sentito, no? Cioè lui era talmente a suo agio in campo ed era talmente un animale a sangue freddo dal punto di vista proprio del temperamento, del carattere, che non sentiva l'emozione, ma non lo dice oggi a distanza di mezzo secolo per minimizzare, lo diceva già allora. Lui andava in campo a giocare contro l'Inter a 15 anni o contro chissà chi, o debuttava a San Siro davanti a 70.000 persone a 17 e non faceva la piega. E evidentemente è ha caratteristiche diverse, no? E credo che per gente così dotata sia davvero difficile insegnare, immagino, insomma. E comunque lui l'ha sempre abbastanza sostenuto. Chiedo pochi minuti di pazienza a un altro ascoltatore già collegato dalla provincia di Vicenza, ce ne sono altri ancora che vorranno intervenire, poi c'è tutto il calendario di stasera da esaminare, qualche voce di vigilia da ascoltare, dopo gli aggiornamenti dai mercati. Problemi di ricezione mi segnalano gli ascoltatori tra Reggio Emilia, Modena fino a Bologna, speriamo di riuscire a provvedere già nel corso di questa trasmissione. Le partite di stasera, Bologna-Udine, vi ricordo che è la quarta giornata di campionato ed è il primo turno infrasettimanale. Bologna-Udinese, Brescia-Roma, Cagliari-Sampdoria, Catania-Cesena, Genoa-Fiorentina, Inter-Bari, Lazio-Milan, Lecce-Parma, Napoli-Chievo, domani sera il posticipo Juventus-Palermo, ne parleremo ovviamente domani con i vostri contributi, con i vostri commenti. Adesso tocca intervenire a Claudio dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Era per riprendere molto velocemente l'argomento che ha toccato con Gianni Rivera. È un dato di fatto, è cosa usuale, per quello che conosco io la realtà del nord-est e anche buona parte del nord, di società inferiori alla Serie A, alla Serie B, diciamo, di società di prima, seconda e terza categoria, di avere un mercato che va alla ricerca di giocatori comunque avanti con l'età, dove vengono pagati con dei bei soldini per poter giocare in prima, in seconda o in terza categoria. Sì. E tante volte mi sono chiesto, ma perché queste società invece di spendere questi soldi per questi giocatori, che comunque la loro attività non andrà oltre alla seconda categoria o alla prima categoria, non li spendono per prendere dei buoni allenatori o delle persone che seguono bene il settore giovanile per rilanciare già da lì i giovani, che potrebbero essere i giovani che potremmo ritrovare nel futuro. Ma certo, ma infatti è un'ottima riflessione, Claudio. Poi io credo che non rottamiamoli tutti, quelli che hanno raggiunto una certa età, in questo caso sportiva, calcistica. Questo no, però se dobbiamo investire, dice secondo me molto giustamente Rivera, l'ideale sarebbe invertire questa tendenza, anche perché poi se si riesce a fare un lavoro serio in profondità, e lo si fa con grande convinzione e ovviamente con grande competenza, si rischia e si rischia per l'appunto di guadagnare un sacco di soldi, perché l'Ajax, il vivaio dell'Ajax ha fatto la fortuna di questa società, ha fatto la fortuna sportiva, ma ha fatto anche la fortuna economica, e forse è il modello mondiale che meglio ha saputo coniugare questo doppio interesse. Marcello in linea da Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini, è sempre un piacere parlare con lei. Intanto volevo ringraziarla per questa breve intervista a Gianni Rivera, che mi piacerebbe che lei dedicasse una volta una puntata intera a intervistarla, dovrebbe essere meraviglioso ascoltarla. Mi sono ricordato, mi ha proprio commosso, perché io sono relativamente giovane, ho un grande ricordo quando una domenica ha preso il microfono, se lei si ricorderà benissimo, in Milan Bologna, e io ero lì che ascoltavo la radio. E quella fu la sua ultima partita di Serie A. Infatti temevo fosse sospesa la partita, perché era lo scudetto della Stella, ma ci si andò vicini, perché il pubblico era tracimato in un settore che era transennato e che era chiuso, e la situazione, l'ora della partita era già passata, e si rischiava seriamente, il Milan rischiava seriamente la sconfitta a tavolino, e alla fine, non, dato che gli appelli dell'altoparlante erano inutili, Rivera prese il microfono e convinse i tifosi del Milan ma erano migliaia, ma molte migliaia, e praticamente si aprirono come le acque, il Mar Rosso a presente. Vabbè, è un ricordo incancellabile, è stata l'ultima grande prodezza di Rivera su un campo per il Milan. Immagini però un ragazzino che ascolta la radio, questa cosa, non c'erano Sky, non c'era la televisione. No, certo. Ultima cosa, velocissimo Garanzini, sono andato sabato purtroppo a vedere il Milan. Io raramente ho assistito a una squadra così senza centrocampo. Il Catania nel primo tempo sembrava il Real Madrid, però e credo che il Catania, se si salva, è già un miracolo. La vedo molto male, vorrei da lei un giudizio proprio tecnico, cosa può inventare con la rosa che ha il buon Allegri. La saluto carissimo, arrivederci. Può provare, grazie, può provare a dare un po' più di equilibrio alla squadra, può provare a venire meno al dogma, no? Lei sa, il dogma di chi? Delle due punte più non so quante altre che devono affiancarle e sovrapporsi. Probabilmente, da quel che ho capito, da quello che vedo dalle anticipazioni, probabilmente lo farà già da stasera probabilmente esagera, nel senso che resta di tutti gli attaccanti che c'erano prima, potrebbe restare solo Ibrahimovic davanti stasera, con Ronaldinho da un'altra parte, sulla sinistra, e Boateng sulla destra. Insomma, sono credo appunto tentativi che un po' alla volta Allegri sta facendo per ridare un po' di equilibrio a una squadra che lì in mezzo soffre indubbiamente troppo, e soffrendo lì in mezzo lascia scoperta la difesa, ma insomma credo che sia inevitabile con giocatori di quelle caratteristiche, ed è una bella sfida per Allegri quella di riuscire a trovare il punto di equilibrio giusto. Non è detto che non ci riesca, perché quando i giocatori hanno qualità, e di giocatori di grande qualità il Milan ne ha tanti, può poi trovarsi l'alchimia, sempre, forse non la continuità, ecco, io credo che in questo non sia cambiato molto dallo scorso anno, sono cambiate alcune pedine, però mi sembra che la filosofia e quindi le potenzialità, ma anche i limiti, siano più o meno gli stessi. Da Milano c'è Marco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io volevo parlare per quanto riguarda lo sciopero dei calciatori. Sì. Io rimango sempre abbasito, perché prendendo 1200 euro al mese, sentire gente che vuol far sciopero, e soprattutto usando giocatori dilettanti, come metterli davanti per i loro scopi da milionari, mi viene proprio da, da star male, veramente. No, questa, però lei sta dicendo un'inesattezza in questo momento. Sono loro che si mettono davanti per i... Loro hanno un sacco di torti. Poi le parlo subito dopo di uno in particolare, di cui si sono, secondo me, macchiati ieri. Però è il contrario di come dice lei. Sono semmai loro che si mettono davanti per trainare un movimento dietro che non avrebbe la stessa forza contrattuale ed immagine. Mi scusi, ma proprio l'immagine che ha dato Oddo è proprio tutto il contrario, veramente. Perché c'è uno come Oddo, messo fuori squadra, si mette a rappresentare i giocatori di Serie A, mi viene da star male veramente. Questo ce l'ha perché del Milan l'ha messo fuori squadra e basta. E sono 2 anni che è lì a bazzicare con uno stipendio da 2 milioni di euro al mese. Ma comunque, al di là di quello... Però Marco, lei cosa dei dilettanti, io volevo anche dire una cosa: questa gente qua si fa male e porta a casa lo stipendio intero. Quando lui si mette a dire che vuole essere trattato come tutti gli operai, forse non lo sa che noi non prendiamo tutto lo stipendio intero, non soprattutto all'inizio, ma dopo ci viene decurtato un tot dello stipendio. Loro invece adesso vogliono anche scegliere con chi devono andare. È come se io, che guadagno 1200 euro al mese, guadagno con le trasferte, che faccio l'autotrasportatore, dico no, voglio prendere lo stesso 3.000 euro al mese per andare, che ne so, a Genova, in Svizzera, tutto il mese, e invece me ne sto a casa. È la stessa cosa. Ma io credo che insomma la stessa cosa sia un po' dura da mettere insieme tra una categoria privilegiata come quella dei calciatori e degli uomini di spettacolo, perché oggi sono più questo che non quello, e una categoria invece che fa una vita dura e grama come la vostra. Io credo che non andrebbero sommate, però non dimentichi mai, Marco, che se guadagnano tutti questi soldi perché qualcuno glieli dà. Io se proprio devo prendermela con qualcuno, preferisco prendermela con chi glieli dà, che non con chi gliene dà troppi, che non con chi riesce ad averne troppi. Ma è una questione di gusti, evidentemente. La vigilia, allora abbiamo parlato dei problemi di Allegri, sentiamo cosa dice la vigilia di questo Lazio-Milan. Giustamente parlano della Juventus che è rinata, che ora lotta per il campionato. Credo che la Juventus abbia gli stessi punti nostri. Infatti noi non bisogna farci assolutamente prendere da questa frenesia della mancanza di risultati. L'equilibrio deve regnare, anche perché credo che in Champions siamo partiti molto bene. Questa era la vigilia di Allegri, sentiamo quella di Benitez. Prima cosa è la nostra squadra. Noi decidiamo che cosa vogliamo fare, le giocatori giusti per questa partita, e dopo guardiamo l'altra squadra. Guardiamo l'altra squadra, sì, possiamo fare una cosa o dobbiamo fare una cosa, un cambiamento perché così aggiustiamo meglio, possiamo farlo, non è un problema. Ma la prima cosa per me è una squadra come Inter. Deve essere una squadra protagonista e deve dire io voglio fare questo, e lo facciamo. Stasera deve fare a meno però di Xavier Zanetti, e non soltanto stasera, per un minimo di 3 partite, magari anche qualcosina di più, per i postumi con l'infortunio accusato a Palermo. Ed è evidentemente una notizia che Xavier Zanetti non sia in campo, perché non accadeva in campionato e in Champions dal 5 novembre del 2005, quindi erano quasi 5 anni che questo inossidabile argentino non saltava una partita di quelle che contano, comunque, ripeto, per campionato o per Coppa. Ultimo intervallo di oggi, il traffico. Potremmo fare questo giochino sulla prima giornata di quel campionato in cui debuttò con la maglia del Milan a Rivera. Potremmo far partire, per esempio, la sigla di tutti i giorni, e poi, anziché la voce di Nicola Filippone, c'è questo elenco di partite. Sembra ieri. Allora, prima giornata 1960-61, campionato, 25 settembre, Atalanta-Inter 1-5, con 3 gol di Firmani, 1 di Corso, 1 di Angelillo e il gol dell'Atalanta di Magistrelli. Bari-Roma 0-3, tripletta di Pedro Manfredini, detto Piedone. Fiorentina-Lecco 4-0, Montuori, Amrin, Petris e Marchesi. Vicenza-Napoli 2-3. Allora, Del Vecchio, Pivatelli, Conti, Di Giacomo, Pinti, i marcatori. Lazio-Bologna 1-3, Mattei, Campana, Bulgarelli, Campana. Doppietta di Campana, che sarebbe il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori. Milan-Catania 3-0, ve l'ho detto, col debutto di Rivera e i gol di Altafini, Barisone e Vernazza. Spal Padova 1-1, gol di Novelli e di Milani, Milani che sarebbe poi diventato il centravanti dell'Inter Euromondiale. Torino-Sampdoria 0-1, gol di Mora, e Bruno Mora sarebbe poi diventato una colonna della Juventus, del Milan e della Juventus, prima di un gravissimo incidente che gli troncò la carriera giovane, che fu il segnale presago di un destino infame che lo colpì poi in età giovanissima. Udinese-Juventus 0-1, gol di Colombo, il mediano di quella formazione che comprendeva Charles e Sivori. Quel campionato lo vinse poi la Juventus con 4 punti di vantaggio sul Milan. Torniamo agli amici ascoltatori, anche alle voci che abbiamo ancora da sentire. Beh, per esempio la vigilia molto delicata, la vigilia della Roma, trasferta a Brescia senza De Rossi, senza Totti, ma soprattutto con un sacco di problemi da risolvere. Sentiamo Ranieri. Gioca un ruolo fondamentale l'aspetto motivazionale, l'aspetto tranquillità, serenità. Queste sono le cose importanti. Quando noi riusciremo a venirne fuori, perché la Roma ne verrà fuori, allora vedrete che la squadra correrà, di punto in bianco la squadra correrà. Ma cosa è successo? È la testa, signori miei, è la testa. È la testa, è una battutaccia, insomma, ogni tanto bisogna anche risparmiarsene e soffocarle sul nascere. Il Palermo convoca Miccoli per la partita di domani sera contro la Juventus. Rossi, questa è un'agenzia appena battuta, ha convocato anche Miccoli. L'attaccante torna dunque a disposizione del Palermo dopo oltre 4 mesi da quel brutto incidente al ginocchio nella penultima giornata del campionato scorso in casa con la Sampdoria, la partita, se ricordate, che doveva decidere la qualificazione dell'una o dell'altra al quarto posto che valeva la Champions League. C'è un Gianni collegato alla provincia di Alessandria, ma non credo che sia esattamente Rivera. Dica Gianni, pronto? Qualche problemino evidentemente di ricezione. E allora Mihajlovic, cioè la vigilia non facile neanche in questo caso da parte della Fiorentina. E si sa, e sono consapevoli anche loro che siamo in una brutta situazione, perché adesso va bene così, ma se continuiamo così due partite dobbiamo portare tutti i guantoni e andare a fare i voti con i tifosi, se è così. Perciò sappiamo tutti che una cosa è difficile, che dobbiamo uscire fuori da questo, ma siamo consapevoli che possiamo uscire. Un momento non facile, nemmeno a Firenze è complicato, a parer mio, proprio dallo stesso Mihajlovic, con le frasi del dopo Lecce, che su una piazza come Firenze, e cioè la messa in stato d'accusa della squadra, non portano mai molto lontano e non portano mai nulla di particolarmente buono. C'è in linea dalla provincia di Alessandria Gianni, che spero, credo non sia, sì, ci sono, non ci sia sono. Di nuovo Rivera, dica, ci sono. Dica. Buonasera. Sera. No, io vi ho assistito nel 59-60, no? Sì. Una partita Alessandria-Genova, no? Quando lì poi lui ha fatto un gol strepitoso, no? Alla fine della partita un tifoso genovese, mi spiacerebbe vederlo, disse: è tutto qua Rivera, va? Era uno che vedeva lungo, evidentemente, Gianni. Ci sono, ma sa, a 15 anni, a 16 anni si possono anche prendere degli abbagli. Lei, io non so chi fosse questo anonimo e competentissimo tifoso a cui lei fa riferimento. A quel tempo c'era già stato un provino, il famoso provino di Linate, in cui Rivera a 15 anni e mezzo fu messo accanto, il provino per decidere da parte del Milan se acquistarlo o meno, fu messo a metà campo con Lidom alle spalle e Schiaffino di fianco. E a fine primo tempo Lidom e Schiaffino, che non andavano particolarmente d'accordo tra loro, ma questa non è leggenda, è realtà, perché tutti e due, quando erano in vita, ricordarono più volte questo aneddoto, tutti e due andarono a Gipo Viani, cioè dal general manager del Milan, e gli dissero: guardi, questo bisogna prenderlo, no, non dovete comprarlo domani, dovete comprarlo stasera, perché questo è un fuoriclasse nato che, ed è un giocatore a cui non possiamo rinunciare. Quindi vede evidentemente che a cercare di indovinare il futuro di un grande è meglio che ci pensino quelli che se ne intendano, no? Poi le memorabilia dei tifosi le possiamo anche lasciare perdere. Franco ci chiama dalla Svizzera, leggo bene dal display? Franco? Sì, sì. Buongiorno. Buongiorno, io volevo chiederle questo. Sì. Una ventina di anni fa un mio buon amico, dirigente del Chiasso, allora in Serie A, voleva far venire dal Brasile dei buoni allenatori per il settore giovanile. Poi per i problemi di lavoro con la Svizzera, praticamente impossibili da ottenere, la cosa cascò. Lei pensa che è possibile fare questo in Italia, soprattutto per i preliminari dei giocatori? È interessante come idea o una bufala? No, non lo so, Franco, sinceramente, non ne saprei dire. Non so se gli allenatori brasiliani siano più bravi o meno degli altri. A me pare che la grande scuola brasiliana nasca dalla strada più che dagli allenatori. No, mi pare che nasca dalla strada, dalla spiaggia, dalle favelas, purtroppo. Insomma, che nasca il football bailado, nasca da lì, nasca anche una volta si diceva che nasceva in particolare dall'obbligo di dover imparare a controllare un pallone su in mezzo ai sassi, ai ciottoli, oppure sulla sabbia. Pallone di stracci più delle volte. Io temo che in qualche parte del Brasile sia rimasta questa la situazione. E quindi non so poi quanto un allenatore brasiliano possa essere più bravo invece di uno delle nostre parti. Bisognerebbe sentire qualcuno che se ne intende un pochino più di me. Di sicuro Andrea da Vicenza, con questa mail, ma anche molti altri ascoltatori, con i loro messaggi, hanno notato come l'associazione calciatori abbia chiesto e ottenuto l'anticipo del turno di campionato del 6 gennaio al 22 dicembre, ma soprattutto siano passati dalla giornata festiva e quindi in buona parte pomeridiana del 6 gennaio alla notturna sui campi ghiacciati del 22 dicembre. Allora, poiché la sosta rimane evidentemente della stessa durata, perché non cambia la durata, e poiché si passa dal pomeriggio alla sera, in quei giorni e con quella meteorologia, alcuni di questi ascoltatori dicono che in questo caso l'associazione calciatori ha fatto un errore o un autogol. Io concordo in pieno, credo che questa sia una seria buffonata che l'associazione calciatori si poteva risparmiare e che la Lega, a parer mio, ha fatto male ad accettare. Perché oltre al danno per le televisioni e per gli spettatori c'è un danno anche per chi sarebbe andato più volentieri allo stadio in un giorno, in un pomeriggio festivo, e invece è costretto semmai ad andarci in un turno serale e prenatalizio. Decisione, a parer mio, demenziale. Chiudiamo qui per oggi, ci risentiamo regolarmente domani dopo aver ringraziato Luca Rinaldi in redazione e Roberto Scaltritti in regia. Buon pomeriggio a tutti. Tempo di sport.